30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. È partito mercoledì davanti alla Corte d'Assise di Trapani, presieduta da Angelino Pellino, il processo per l'omicidio del sociologo e giornalista Mauro Rostagno, avvenuto il 26 settembre del 1988 a Valderice. Gli imputati sono il boss trapanese Vincenzo Virga, indicato come il mandante dell'agguato, e il presunto killer Vito Mazzara. Molte le richieste di costituzione come parte civile avanzate dai familiari della vittima, dall'ordine dei giornalisti, dall'Assostampa, dalla Regione, dalla CGIL, da alcuni comune associazione antimafia. Finalmente, dopo 22 anni, siamo in un'aula di giustizia. La verità è più vicina, dice Maddalena Rostagno, 37 anni, la figlia più giovane del giornalista ucciso. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Lo spunto dunque ci viene da un processo che racconta una vicenda drammatica di molti anni fa, ma come purtroppo accade spesso, vicende che non si chiudono nel dolore ma che rimangono aperte e che generano invece interrogativi. Ecco, per aiutarci a capire di più su questa vicenda, questa sera è con noi Fabrizio Feo. Buonasera Fabrizio, innanzitutto. Buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori. Fabrizio Feo è un collega, un giornalista, uno di quei giornalisti che come dire, ci fa piacere avere in studio, che producono della ricerca sul nostro paese, sugli aspetti che purtroppo spesso sono anche i più dolorosi, ma poi sentiremo anche su storie di entusiasmo di giovani, di adulti che non ci stanno ad accettare la legge della mafia. Partiamo, Fabrizio, da una breve ricostruzione. Cosa significa oggi il caso Rostagno? Il caso Rostagno significa tantissimo, non solo per lo sfondo di questo delitto che avviene a settembre dell'88, uno sfondo nebuloso, direi, anche pieno di interrogativi ancora oggi riguardo ai moventi non solo e non tanto mafiosi, ma anche insomma più sfumati, riferiti ad affari internazionali poco chiari, che comunque nella mafia trapanese e non solo avevano un diciamo così, un riferimento, un momento, un punto di interesse. Ma significa tanto anche perché è la vicenda di un giornalista, o meglio di un sociologo prestato all'attività giornalistica, che aveva scelto l'attività giornalistica come trincea in una terra difficilissima, che ha insegnato anche alle generazioni successive che cosa significa lottare a viso aperto contro certi fenomeni. Mauro Rostagno denunciava quotidianamente da RTC, una televisione locale trapanese in cui aveva scelto di impegnarsi, il malaffare legato direttamente o indirettamente alle vicende di Cosa Nostra e agli affari, gli interessi di Cosa Nostra. Quindi per dire, ci sono molti aspetti importanti ed attuali, io direi. È un punto di riferimento anche per come si intendeva allora e come si dovrebbe intendere, io dico, l'attività giornalistica. Cioè molto collegata agli interessi delle persone, alle esigenze delle persone e quindi voglio dire anche ai bisogni. Ai bisogni e in questo caso anche a quelli di un territorio, bisogni che peraltro sono, esatto, anche i nostri. Ecco, il territorio, vorrei leggere qualche riga. Trapani e la sua provincia non sono come le cartoline che le raffigurano, sono molto più belle, tanto che ti ammali di nostalgia ogni volta che ti allontani. Quanti di noi sono innamorati della Sicilia e vivono intimamente anche un sentimento, un po' di confusione per la consapevolezza delle difficoltà di chi poi appunto vive la legalità tutti i giorni, come scrive Fabrizio Feo proprio nelle prime righe del suo libro di cui ora parleremo. Dice: Trapani è ammalata, malata di mafia, malata così tanto e da così tanto tempo che ormai nemmeno se ne accorge e che, come molti malati, non vuole ammettere il suo stato. Ecco, Trapani è un luogo importante, l'abbiamo citato per il processo, tu lo scegli come punto di partenza per raccontare Matteo Messina Denaro. La mafia del camaleonte è il titolo del libro di Fabrizio Feo, edito da Rubettino, un importante editore calabrese. Peraltro, ecco, Trapani. Trapani è la città che appunto Mauro Rostagno aveva scelta. Lui diceva, io ai trapanesi diceva, io sono più trapanese di voi. Trapani è importante perché viene considerata, e non è un errore, la culla di Cosa Nostra, intesa sia come organizzazione mafiosa tradizionale sia come cultura di Cosa Nostra. E le cose che ho scritto e che citavi sono riferite proprio a questa peculiarità di questa terra, cioè è un luogo dove Cosa Nostra riesce a non essere evidente. Io dico la incontri per strada ad ogni angolo, è discreta e presente. Perché? Perché è una mentalità. È una mentalità che è stata inoculata praticamente in settori importanti della società. Dico anche che Trapani non è tutto questo, infatti basterebbe vedere che cosa è accaduto al processo. C'erano tanti giovani trapanesi che sono arrivati per la prima udienza del processo Rostagno sotto il tribunale, e questo ti dà un'idea. E c'erano anche trapanesi un po' più, fra virgolette, anziani, quelli della generazione di Mauro Rostagno, che sono stati vicini a lui. Quindi c'è una città, un territorio che è contro Cosa Nostra, ma c'è una Cosa Nostra che molto diversamente da altre aree della Sicilia e per qualche verso anche da Palermo è molto più radicata, direi, nelle coscienze. Ecco. Scusami Fabrizio, torneremo a parlare dei giovani tra un momento. Io vorrei portarti su un terzo passo. Abbiamo parlato di Mauro Rostagno, di Trapani e di un filo rosso che emerge, direi inevitabilmente, che conduce appunto a Matteo Messina Denaro. Ora, tu lo definisci sempre nelle prime righe, una breve citazione: un uomo pericoloso, intelligente e spietato. Come dire, microprofilo di un capo dei capi? Sì, assolutamente. Ed è Matteo Messina Denaro non è fondamentalmente questo, voglio dire, il tipo di mafioso al quale siamo abituati anche per quelle che sono state le figure molto rimarcate dalla cronaca negli ultimi 10 anni. Noi abbiamo sentito parlare tanto dei Lo Piccolo, dei Rotolo, dei Nicchi nell'ultimissimo periodo, dei Raccuglia. Questi personaggi, ma anche i Provenzano, i Riina, sono estremamente diversi da Matteo Messina Denaro. Perché sono diversi? Perché Matteo Messina Denaro è innanzitutto un mafioso con un pedigree, si potrebbe dire. Lui viene da una famiglia di mafia, è figlio di un capo mafia, oltretutto rispettatissimo dentro Cosa Nostra e temuto, che era Francesco Messina Denaro, l'uomo che avrebbe poi dato l'ordine, manco a dirlo, di compiere l'omicidio Rostagno e altri. È il figlio di questo capo mafia che sostituisce addirittura, per dare un rapido riferimento storico, Cola Buccellato. Chi era? Era un appartenente alla famiglia De Buccellato, capo poi della mafia trapanese fino all'inizio degli anni 80, fino al 1980, la famiglia De Buccellato, che era la famiglia che si scontrò storicamente con quella dei Bonanno. E chi sono i Bonanno? Facciamo un ulteriore passo indietro. Sono la famiglia di Castellammare del Golfo, sempre provincia di Trapani, che è andata a spiegare cosa fosse Cosa Nostra agli immigrati, a quei criminali che erano emigrati negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, e fu proprio Gio Bonanno da Castellammare del Golfo a formare la più importante delle famiglie di Cosa Nostra newyorkese. Quindi, insomma, un esponente dell'aristocrazia anche storica mafiosa, Matteo Messina Denaro nasce nel 62 e si dà alla macchia nel 1993. Anche questo è un aspetto del suo profilo. 30 minuti in cronaca. Un uomo pericoloso, intelligente e spietato. Questo è Matteo Messina Denaro. La consacrazione a icona del crimine organizzato su scala internazionale la riceve il 25 aprile del 2008 dalla prestigiosa rivista Forbes. Lo indica tra i 10 più importanti ricercati al mondo, insieme, giusto per citarne un altro, a Osama Bin Laden. Così scrive, tra l'altro, Fabrizio Feo nel suo Matteo Messina Denaro, la mafia del camaleonte, edito da Rubettino. Fabrizio Feo, che questa sera è con noi. Insomma, Fabrizio, una figura veramente a tutto tondo e a tutta modernità anche, e per questo così pericolosa. Certo, perché insieme a quel, diciamo, profilo che tu hai giustamente definito aristocratico, ovviamente da un punto di vista mafioso, poi c'è il suo modo di essere, che è quello che in qualche modo potremmo dire ha fatto pensare a Riina che potesse essere il vero erede, come capo dei capi, il suo vero erede. Cioè, Matteo Messina Denaro è uno che spara tanto, racconta a uno dei suoi che con la gente che ha ucciso avrebbe potuto riempire un cimitero, è quello che organizza e coordina le operazioni per compiere gli attentati del 93. In realtà lui parte anche prima, perché l'attentato a Maurizio Costanzo, a Via Fauro a Roma, cominciano a organizzarlo nel 92, quando è sempre Matteo Messina Denaro a dare la caccia per le strade di Roma a Giovanni Falcone, allora al Ministero della Giustizia. E è Matteo Messina Denaro però anche quello che, oltre a delitti spietati, concepisce un percorso imprenditoriale particolarissimo, cioè un'azione di conquista del cuore proprio e della connivenza, della complicità di vaste fasce e aree di imprenditoria di quella zona, tant'è che sappiamo qualche giorno fa è stato condannato a 30 anni di carcere insieme a Giuseppe Grigoli, che ha avuto una condanna a 12 anni, e Giuseppe Grigoli è l'uomo che aveva un centinaio di punti di vendita a Despar in Sicilia, cioè un personaggio diciamo dell'imprenditoria siciliana sicuramente molto importante. Quindi Messina Denaro è capace di operare a tutti i livelli, quello certo, fisico, quello violento del sangue, quello che richiede le prove fin dalle piccole piazze dove si forma, e non solo in Sicilia, la cultura mafiosa, e quella naturalmente degli affari, quello che si sposta verso il nord, verso le capitali finanziarie. Certo, assolutamente sì. Oltretutto tiene presente che quello della grande distribuzione non è l'unico settore, non è l'unico settore in cui lui ha messo le mani, ma possiamo parlare del cemento, possiamo parlare degli affari dell'eolico, insomma. Dove i soldi girano, esatto, un boss mafioso si presenta. Ecco, Fabrizio, vorrei parlare anche dell'altra parte, perché naturalmente è importante, è essenziale raccontare queste storie, questi profili, ma nel tuo libro c'è anche un ampio spazio per quelli che appunto dicono di no. Tu citi, certo, tra gli altri, i nomi sono molteplici, Linares. Chi è Linares? Linares è stato fino ad un mese fa il capo della squadra mobile di Trapani, squadra mobile della Polizia di Stato, e l'uomo che negli anni ha meglio di altri dato, per così dire, un volto a questo personaggio atipico, moderno e pericoloso di Cosa Nostra. Ha dato un volto attraverso le inchieste, le indagini, raccogliendo elementi e mettendolo alle corde. Basta pensare che tra il 2009 e il 2010 ha messo in carcere una quantità di appartenenti all'organizzazione mafiosa, al gruppo di Matteo Messina Denaro, mettendo le premesse perché anche venissero poi colpite organizzazioni di Cosa Nostra, famiglie di Cosa Nostra, visti i rapporti che Matteo Messina Denaro aveva ed ha anche nelle altre province, dall'Agrigentino a Palermo. E è un giovane funzionario che oggi è chiamato a un nuovo impegno come responsabile della divisione anticrimine della Questura di Trapani, che io dico quello che veramente ha dato, a parte un volto, una misura, un peso a questa figura, la figura di Matteo Messina Denaro, identificandone tutte le sfaccettature. Ecco, si parla molto naturalmente, giustamente, alla lotta dell'antimafia. Dallo sguardo di un osservatore appunto attento a questi temi, come valuti la situazione? Stiamo davvero come dire, concentrando l'attenzione e valorizzando le figure e le capacità, tu hai citato Linares, appunto, che hanno dimostrato negli anni di essere davvero convinti nella loro battaglia? Ma io penso che si potrebbe fare di più, nel senso che al di là dei mezzi che non sono mai sufficienti per le forze dell'ordine, della polizia, per la magistratura, si potrebbe fare di più soprattutto nell'impegno di valorizzazione di intelligenza. Ecco, per esempio, io mi auguro che nell'immediato futuro anche figure come Linares possano produrre ancora, avere le opportunità e le occasioni di produrre ancora risultati come quelli che sono stati raccolti negli ultimi anni. Io faccio un esempio, è lo stesso Matteo Messina Denaro a scrivere a Provenzano, anche se poi quando scrive Matteo Messina Denaro si cela anche dietro molte maschere, a scrivere che sono stati portati via tutti, riferendosi ad arresti avvenuti in una delle aree che lui controlla direttamente, cioè Marsala, manca solo, scrive, che portino via anche le sedie. Questo vuol dire arrestino anche le sedie, questo vuol dire che i colpi sono stati forti, ma non si può pensare a Cosa Nostra come a una sorta di giocattolo che lo schiacci con un colpo di martello e si rompe, è qualcosa di molto più mobile, di molto più duttile. Aveva ragione Giovanni Falcone quando diceva che Cosa Nostra è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani deve finire. Io aggiungerei finirà con l'uomo probabilmente, quindi è una battaglia di lunga durata di fronte alla quale non ci si può rassegnare. Poi io penso che anche i segnali dal fronte antimafia, io parlo poi anche della società civile, forse dovrebbero essere più univoci, più coerenti, più coesi. Spesso ci si divide su piccole cose, si perde di vista la battaglia, l'obiettivo grosso. Ecco, sì. Però Fabrizio, sicuramente questi ultimi anni, tu hai citato più volte naturalmente Falcone, ma hanno anche generato un movimento di giovani che è impressionante. Chi ha voglia di fare due passi per Palermo e altri luoghi della Sicilia, per esempio inseguendo i percorsi di Addio Pizzo, beh, può fare una scelta, può condividere anche uno sforzo di un progetto che era nato con una serie di bigliettini gialli attaccati ai negozi della città, e mi riferisco a quel movimento appunto di rifiuto del pizzo che oggi è diventato Addio Pizzo Travel, che porta studenti di Pavia, di tanti luoghi del nord, a conoscere i luoghi di mafia, a condividerli, eccetera. Insomma, questo patrimonio è reale. Assolutamente, ma io vorrei ricordare quello che ha detto qualche giorno fa all'inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore generale di Caltanissetta, che è stato procuratore aggiunto a lungo a Palermo e si è occupato di Trapani, Scarpinato. Roberto Scarpinato ha parlato di modello nisseno di Caltanissetta, riferito, tu hai detto giustamente, a Dio Pizzo. In quel caso lui si riferiva anche a quello che ha fatto Confindustria a Caltanissetta, cioè a quello che hanno fatto imprenditori che con coraggio hanno detto no e si sono impegnati. Ebbene, quello è un segnale, è un impegno che ha prodotto risultati importantissimi, e segnalo questo fra parentesi, ma giusto come elemento di riflessione e sul quale poi cercare anche di ragionare. Per esempio a Trapani non è accaduta la stessa cosa, e questo la dice lunga, ma quell'esempio, quello di Caltanissetta, insieme a quello che a Palermo ha fatto il movimento di Addio Pizzo che tu citavi giustamente prima, e io dico quello che per esempio rappresentano organizzazioni come Libera, il coordinamento dell'associazione antimafia di Don Ciotti, i giovani che Don Ciotti porta ogni anno in piazza in modo non semplicemente come dire folcloristico, perché poi dietro tutto l'anno c'è un'attività e un impegno. Beh, quelle sono le forze da cui partire. Queste sono le forze da cui partire. Bene, partire per, come Fabrizio Feo ha detto pochi momenti fa, come dire, per un percorso che è inevitabilmente lungo, ma che non è affatto un percorso inevitabile, che è di contrapposizione, di lotta, di colpi inferti, di persone che sono in grado di farla in condizioni molto difficili, ma anche naturalmente, soprattutto, di un lavoro culturale a lungo termine. Una battuta, Fabrizio, su questo fronte la mia sensazione, ma spero anzi che tu mi dica che mi sto sbagliando, è che in realtà siamo rimasti ancora un po' più indietro, per esempio le scuole, cioè a volte addirittura sembra che sia quasi una faccenda solo siciliana. Sì, questo è vero, questo è vero, io ti dico di più, nelle scuole, il lavoro che viene fatto, diciamo così, in questi passaggi centrali per la formazione del cittadino e sul territorio, sono purtroppo ancora impegno di illuminati, di singoli, anche di organizzazioni, ma che insomma non si ritrovano dietro un fronte e una coralità istituzionale. Faccio un esempio concreto. Ed è l'ultimo. Nelle scuole l'educazione civica dovrebbe essere anche educazione alla legalità. Forse insomma bisognerebbe andare avanti anche in questa direzione. Grazie a Fabrizio Feo, lo ricordo, Matteo Messina Denaro, La mafia del camaleonte, l'edizione è Rubettino. Un invito di cuore alla lettura di un tema che riguarda tutti noi. Grazie a Peter Bescapè in regia, l'appuntamento con 30 minuti in cronaca per la prossima settimana.